Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, 8 minuti dopo le 11. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo, come stai? Ciao Federico, bene bene, guarda, poi ti dico, insomma, sono particolarmente felice oggi del tema di questa puntata, sì. Come ben sai. È un tema interessante, benché insomma la notizia da cui partiamo sia una notizia anche, adesso drammatica è parola grossa, però insomma che qualche allarme lo ha lanciato. In 8 anni in Italia 100.000 neonati in meno, crisi della natalità. Oggi parleremo proprio di questo perché, insomma, i tanti commenti, no, di questa notizia che ha aperto la settimana, che vanno a cercare le cause, e le cause dicono: le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno numerose e mostrano una propensione decrescente ad avere figli. Cioè c'è la crisi della natalità e si guarda al mondo femminile. Noi invece cerchiamo oggi di voltare un po' lo sguardo anche verso noi uomini, verso noi padri. Ma assolutamente, il punto è proprio questo, no? Poi, come tu ben sai, quando mi hai proposto di fare questa trasmissione insieme, io speravo proprio che andassimo a toccare, oltre a parlare a questo discorso delle opportunità, che parlassimo anche delle discriminazioni, delle difficoltà, delle contraddizioni, no? che appartengono all'essere padri oggi. Perché poi in realtà parliamo tutti sempre più spesso di paternità consapevole, di genitorialità attiva e presente, ma poi la realtà, che è ciò che testimonia anche quella articolo lì, che alla fine molto spesso siamo ancora fermi agli anni 50. E capiremo il perché e il come. Questo è Padri Eterni, 2 padri, 5 figli insieme. Parliamo di padri moderni, padri nuovi, padri incasinati ma che cercano di avere tempo di qualità con i propri figli. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete riascoltare la puntata, ma ci sono anche gli SMS e i WhatsApp per i vostri interventi. Il numero è unico ed è 349-238-6666. Mille volte ancora Max Gazzè per introdurre questa puntata e per introdurre, annunciare il primo ospite. Diamo il benvenuto a Elisabetta Ruspini, che è professoressa di sociologia all'Università di Milano Bicocca e co-curatrice del libro Diventare padri nel terzo millennio. Franco Angeli, buongiorno Ruspini, buona domenica. Buongiorno a voi, grazie mille. Allora, beh, un tema tosto quello che abbiamo scelto di affrontare, quindi cercare di vedere, di analizzare la crisi della natalità con gli occhi, con gli occhiali, con la grammatica del mondo maschile. Il passaggio da uomo a padre è un passaggio scontato? Ma allora, innanzitutto molte grazie per, vi devo ringraziare perché occuparsi appunto della tematica della, diciamo, decrescita della natalità con occhi maschili mi sembra molto innovativo. In effetti si parla quasi solo ed esclusivamente di donne. Allora, il passaggio, quella che noi chiamiamo transizione da uomo a padre, certamente non è una cosa semplice. Voi siete padri, l'avete vissuto e lo sapete, e non è semplice non solo per questioni individuali, per una questione appunto soggettiva, ma perché l'esperienza soggettiva è innestata in un contesto che può essere più o meno friendly nei confronti di questa transizione. Sì. E noi sappiamo che l'Italia, in quanto contesto familista, io guardavo prima, aspettando la vostra telefonata, siti che parlano di, ad esempio, donne e uomini child free, oppure che parlano di natalità, si parla quasi esclusivamente di donne. I padri, gli uomini, sono stati tenuti a margine della cultura della riproduzione. Nel libro che lei ha citato, noi diciamo molto chiaramente, i padri, gli uomini, sono stati tenuti appunto lontani simbolicamente dai luoghi del parto, della riproduzione, e venivano chiamati, diciamo ad esempio, a collaborare al parto solo quando c'era bisogno della loro forza fisica. Ok. Chiaramente questo ha tenuto, come dire, questa distanza simbolica e anche istituzionale li ha tenuti molto lontani dalla dimensione della cura, della nascita, del puerperio, via dicendo. Perciò la transizione, in Italia in particolare, certamente non è semplice. Quindi sono quasi degli osservatori questi papà. Sì, ma poi abbastanza osservatori. Lei, noi citiamo appunto nel libro, lei le avrà viste, insomma, queste le famose barzellette o vignette dove si vedevano i padri che fumavano nervosamente fuori dalle sale parto in attesa che arrivasse il bambino, arrivassero i bambini o la bambina. Ecco, questa cosa è, come dire, si fa ironia invece su un'esclusione abbastanza pesante. Ruspini, lei dice siamo stati tenuti lontani in maniera simbolica, in realtà io direi anche non solo simbolica, ma anche proprio in maniera simbolica. Assolutamente sì. Pratica, nel senso che poi lo vediamo anche oggi, no? Che si parla sempre più spesso di paternità consapevole, presente, che ci sono maggiori opportunità, ma laddove un padre decida di, come dire, investire maggiormente il suo tempo, no? sulla cura, sulla presenza, sulla tenerezza, anche sulla cura domestica, perché no? Viene rubricato a mammo, viene femminilizzato in automatico, no? C'è questo tentativo quasi da subito di stigmatizzare, anche questo forse ha un peso da un punto di vista sociale, no? Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Quando, diciamo, la dicotomia donna-uomo, lui-lei, diciamo lui che è forte, lei che è accudente, questa dicotomia, come dire, che ci ha ingabbiato, che ha ingabbiato anche le relazioni di genere per tantissimo tempo, purtroppo è ancora molto forte. Perciò, non essendoci, non avendo ancora percepito il continuum all'interno, diciamo, dell'essere uomo, dell'essere donna, quando un uomo fa cose da donna automaticamente viene buttato dall'altra parte della dicotomia e diventa, facendo funzioni femminili, diventa una donna e diventa un mammo, che è effettivamente un'offesa, diciamo, un termine assolutamente non appropriato, perché un uomo può esprimere la propria paternità, maschilità, femminilità senza voler essere definito, come dire, come mammo, come donno o ancora peggio. Certo. Certamente. Ruspini, le chiediamo un minuto di pazienza, ci fermiamo, è il momento del traffico, poi torniamo immediatamente da lei. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con Padri Eterni, 349-238-6666, se volete mandarci messaggi, se volete confrontarvi, se volete condividere con noi la vostra opinione. Siamo in collegamento con Elisabetta Ruspini, professoressa di sociologia all'Università di Milano Bicocca, e stiamo parlando appunto di denatalità dal punto di vista maschile. Ruspini, da cosa sono spaventati oggi gli uomini davanti alla gravidanza? Cos'è che fa paura? È una bella domanda, voi avrete vissute queste paure, diciamo le paure sono molto soggettive, c'è una grossa paura, ma anche qua connessa a una costruzione deformata dei ruoli di genere, la paura di perdere l'intimità con la compagna, questa è una grande paura, ecco, lei mi guarderà, non mi guarderà, riuscirò ad avere ancora dell'intimità con la mia compagna. E poi, come dire, chi ha vissuto, come anch'io sono madre di due figli, chi ha vissuto questo periodo sa che ci sono degli adattamenti, chiaramente, che è tutto in divenire, bisogna essere molto flessibili. Un'altra paura è, sarò adeguato? Saprò cosa fare? Qual è il problema? Il problema maschile è che per una questione fisica gli uomini non sono in grado di sincronizzare i mutamenti fisici all'interno della gravidanza con l'esperienza appunto della gravidanza e prepararsi alla nascita, perché non portano il figlio dentro o la figlia dentro. E allora c'è anche, diciamo, la paura, c'è questo gap. Prima sono, come dire, sono un uomo, non posso portare il figlio perché lo porta la mia compagna o mia moglie. Sarò, in questi 9 mesi riuscirò a prepararmi, non potendo avere contatti con il bambino che invece è nel ventre della donna? Ecco, questa è un'altra paura. Oppure paure connesse con il fatto che magari il figlio potrà portare dei danneggiamenti, dei danni alla carriera, anche questa è, come dire, una cosa che purtroppo fa un po' ridere dirla, ma ancora... ma diciamola questa cosa, diciamola, perché quando una donna fa un colloquio di lavoro, se non la prima domanda, ma la seconda che le viene rivolta è se avrà intenzione di avere figli, e invece agli uomini non lo chiedono mai. Anche questo non è forse la testimonianza migliore di questa disuguaglianza di cui stavamo parlando? Esattamente, perché si dà per scontato che ci sarà una donna, madre, nonna, zia, che si occuperà del bambino. Che forse poi è anche la ragione, no, Ruspini, per i quali noi uomini veniamo in un certo senso quasi educati a doverci difendere da un'idea di una potenziale o possibile paternità. Non trova bizzarro anche questo? Voi siete, diciamo, l'Italia è un contesto particolarmente difficile, siete, diciamo, un po' schiacciati tra una dicotomia pesantissima che è quello dell'uomo lavoratore forte e via dicendo e il padre accudente. Voi dovete fare delle scelte, ma sono delle scelte quasi antitetiche per voi. Non dovrebbe essere così. Beh. Le due cose devono andare di pari passo. Voi siete dentro di voi, io non sono un uomo, perciò questo me lo potete dire voi, ma dentro avete femminilità, accudimento, affetto, forza. Tutte queste cose messe insieme, voi siete in grado di esprimerle a seconda delle situazioni e delle necessità, non vi si può ingabbiare, noi infatti le chiamiamo gabbie del maschile, non vi si può ingabbiare in un ruolo, perché poi questa cosa genera la depressione postpartum, genera la frustrazione chiaramente, genera poi anche la spaccatura di molte famiglie, perché l'arrivo di un figlio non è sempre per una coppia un evento che rinsalda i legami, spesso li spezza. Assolutamente. Proprio perché all'interno della coppia l'arrivo del figlio ha, diciamo, cambiato gli equilibri e magari all'interno mancanza di dialogo oppure rapporti di un certo tipo, magari non particolarmente, diciamo, virtuosi, hanno portato a spezzarsi purtroppo dei legami. Beh, l'arrivo di un figlio distrugge quelle famiglie che hanno aspettative irrealistiche in realtà, no? Credo che la più grande aspettativa, il più grande fraintendimento sia, no, questa cosa che tu, quando arrivano i figli, no, ci sono alcuni che sperano di poter fare ancora le cose che facevano prima. Ma certo. In realtà ne farai altre, ma migliori, ma devi essere disposto ad accoglierle, no? Ecco, mi permetta di dire una cosa, la cosa che dice lei è molto interessante, perché? Perché una cosa importantissima è quella di accompagnare la coppia alla nascita. Non certo. Solo la donna. Ognuno deve giocare il proprio ruolo, questo è fondamentale in ogni fase del campo. Bravissimo, allora i padri, i corsi preparto che anch'io ho fatto e che le vostre compagne avranno fatto se avete dei figli, generalmente lasciano fuori gli uomini partecipano in maniera marginale. No, dovrebbe essere una cosa vissuta assolutamente insieme dall'inizio alla fine. Grazie molte a Elisabetta Ruspini, ricordiamo ancora il titolo del libro, Diventare padri nel terzo millennio, Franco Angeli. Buona domenica e grazie. Grazie. Buona domenica. A voi. Scrive Francesca che dice: io sono una donna senza figli e mi piace come non ponete l'accento solo sul piano economico ma su quello culturale, nei preconcetti sociali, insomma cerchiamo di toccare tutte le facce di questo problema, di questa fotografia della nostra società, parliamo di quest'Italia che non fa più figli e cerchiamo di guardare il tutto da uno sguardo maschile. 349-238-6666 per i vostri messaggi, via sms, per i vostri whatsapp. Matteo, poi c'è un'altra parola chiave, che è la parola congedo. Oh, una parola straordinaria, il cosiddetto congedo parentale. Anche qui si spalanca un universo, no? Perché anche questa è una parola che siamo abituati ad attribuire in automatico alle sole donne. Il congedo parentale per gli uomini è ancora una specie di fantasma, soprattutto per coloro che provano a richiederlo e scoprono che non è così facile. E oggi cercheremo di portare un po' di chiarezza, lo facciamo con un consulente del lavoro esperto per il Sole 24 Ore di varie tematiche, in particolare anche di questa. Diamo il benvenuto ad Alessandro Rota Porta. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno Alessandro. Allora, la parola congedo parentale dal punto di vista degli uomini, quanti file apre? Ma allora, parlando di congedo, quindi riservato ai padri, ci sono essenzialmente, possiamo individuare tre tipologie che la legge offre agli interessati. Allora, c'è il congedo di paternità, sì, che sarebbe, diciamo, quello obbligatorio e scatta soltanto in alcuni casi, cioè ad esempio quando in caso di morte, quindi casi molto gravi di morte, grave infermità della madre, ovvero di abbandono o di affidamento di esclusivo del bambino al padre, e questo sostituisce la cosiddetta maternità obbligatoria, quindi sì, è il congedo definito di paternità. E poi c'è, come avete accennato voi, il congedo parentale, che è, questa è un'astensione di carattere facoltativo. Questo è stato anche modificato in senso estensivo da parte di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, uh-huh, e questo spetta nei primi 12 anni di vita del bambino. Poi abbiamo un altro istituto, chiamiamolo nuovo congedo di paternità, anche se poi non è così nuovissimo perché è stato introdotto dalla riforma Fornero nel 2012 e, diciamo, il primo anno di godimento è stato il 2013, che è quello che consente al padre, lavoratore dipendente, di astenersi dal lavoro in caso di nascita del figlio. Se vogliamo, magari entriamo un po' nei, sì, dettagli, certo, di queste tre tipologie. Cioè, nel momento della nascita del figlio c'è la possibilità o c'è l'obbligo di rimanere a casa? Ma allora, la normativa in senso tecnico parla di obbligo, poi ovviamente non c'è una sanzione correlata, cioè se il padre non lo sfrutta, vuol dire, non succede nulla, però è un'opportunità. Quindi il padre lavoratore dipendente, quando nasce il figlio, entro 5 mesi può astenersi cioè avrebbe un obbligo, poi in realtà non è un obbligo coattivo, quindi non c'è nessuno che glielo impone direttamente, ma si può quindi astenere dal lavoro per quanto riguarda il 2017, perché negli anni sono cambiate il numero di giornate di astensione, nel 2017 sono 2 giorni, quindi 2 giorni che il padre può usufruire. Nel 2018 c'è una novità, sì, perché i giorni non saranno più 2 ma raddoppiano, saranno 4, e a questi giorni se ne aggiunge anche un ulteriore di facoltativo, quindi si può arrivare a 5, però questo giorno può essere usufruito dal padre soltanto nel momento in cui la madre rinuncia a un proprio giorno di astensione facoltativa. Alessandro, mi scusi, le vorrei rivolgere una provocazione, che in realtà, insomma, una provocazione per modo di dire. Io ricordo perfettamente, siccome ho seguito molto questa tematica, che un anno, forse un anno e mezzo fa, il dirigente dell'INPS, no, Boeri, se non sbaglio, avanzò questa proposta, che poi credo non abbia assolutamente avuto seguito, di porre il congedo parentale obbligatorio in caso di nuova nascita, no, per i padri, di 2 settimane. E ricordo che questa cosa davvero scosse il paese dalle fondamenta, perché io quando lessi la notizia dissi: Madonna, benvenuti nel XXI secolo, benvenuti finalmente in un momento nel quale si riconosce, no, che il congedo parentale è un diritto, sia pur minimo, anche per i padri, visto che poi la maternità mi risulta che sia obbligatoria. Ebbene, in quel caso ci fu una levata di scudi, la ricordo benissimo, di chi disse: non è giusto, lo Stato non può obbligare gli uomini a fare delle cose, devono andare a lavorare. Cioè, tornando nuovamente a questa divisione manichea anni 50, no, della donna che deve stare a casa obbligatoriamente e gli uomini che devono andare, altrimenti stando in casa intrigano e basta. E com'è, sì, possibile che siamo ancora fermi a questa divisione qua? Non a caso lei non sta parlando di obblighi, sta parlando di opportunità, di possibilità, ma non c'è nessun obbligo per noi padri. Perché, secondo lei? Ma effettivamente, diciamo che la normativa solo negli ultimi anni ha fatto un'apertura rispetto a questi permessi al padre. Prima non esistevano, appunto, come accennavo prima del 2012, questo congedo per la paternità legato all'evento della nascita, che è un momento molto importante, non esisteva. Qui qualche stimolo, diciamo, sta arrivando in modo, se vogliamo, indiretto, perché ci sono delle misure che vanno a favorire le imprese quindi dando delle, diciamo delle, degli sgravi dal punto di vista contributivo a quelle aziende che creano una contrattazione integrativa, quindi una contrattazione aziendale, per andare a implementare queste misure nella loro caratteristica standard che offre la normativa, se vengono migliorate, se vengono incrementate, quindi tutte quelle misure di conciliazione vita-lavoro, tra cui anche queste tipologie di permessi, possono dare un vantaggio in termini contributivi all'azienda. Ecco, questo può essere uno stimolo da sfruttare. Poi ovviamente cioè queste migliorie devono sempre passare per percorsi di buona prassi e di relazioni industriali all'interno dell'azienda. Da queste vicende, da questi processi, che si può creare un meccanismo virtuoso. Certo. Alessandro, volevo capire questo, non so se ci sono studi o se è un tema che ha toccato, ma i padri che chiedono qualche settimana o anche qualche mese di congedo hanno ripercussioni poi sul lavoro? Ma allora lì dipende, la regola è fatta dai contratti collettivi nazionali, su questo tema veramente c'è pochissimo, c'è scarsa attenzione da parte delle parti sociali nel momento in cui vengono sottoscritti questi contratti nazionali, che poi sono quelli che regolano sostanzialmente, oltre alla legge, i rapporti di lavoro nell'azienda. C'è poco, ci sono delle previsioni in tema di aspettativa, di richieste di aspettativa, ma sono nella maggior parte dei casi vincolate ad una facoltà del datore di lavoro, quindi non c'è un obbligo impreciso. Quindi, a parte queste ipotesi di legge che citavo prima, quindi congedo di paternità, congedo legato di paternità legato alla nascita o il congedo parentale, che quindi sono ipotesi di legge e queste ovviamente il datore di lavoro non può fare a meno di accordarle, per il resto non si ritrova molto. Federico, no, volevo sottolineare una cosa che in realtà paradossalmente, no, spesso i padri che desiderano usufruire di congedi parentali o di un maggiore tempo, no, per dedicarsi alla cura dei propri figli, subiscono ripercussioni non solo sul lavoro ma anche nella vita di coppia. Io ho conosciuto diversi padri quest'anno nei miei giri per l'Italia per le varie presentazioni dei libri, di questi padri che sono stati lasciati dalla compagna, sì, perché hanno voluto dedicare maggiore tempo alla cura dei propri figli, con le compagne che dicevano loro: no, ma vai a lavorare, vai a produrre reddito, anche in presenza di una situazione economica stabile. Cioè il dato principale è proprio culturale, no? C'è questa cosa che noi dobbiamo essere sempre utili ma distanti, no? Che questo territorio non ci appartenga, e questo è il vero male, secondo me. Grazie ad Alessandro Rotaporta, studio rotaporta.com, per tutte le informazioni. Grazie, buona domenica. Grazie a voi, grazie, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi ancora qua in diretta con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Matteo Bussola e Federico Taddia. Questo è I Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, padrieterni@radio24.it. Se volete contattare la nostra redazione, mandarci idee, segnalazioni, spunti per puntate, critiche, suggerimenti, siamo qua. Oppure 349-238-6666, WhatsApp ed SMS. Il tema di oggi è: perché in Italia si fanno così pochi figli? Però, appunto, guardando il tutto da un punto di vista maschile. E però parliamo di felicità adesso, perché è anche questo, no? I figli felici forse aiutano anche a far venire voglia di fare altri bambini, e lo facciamo insomma da un osservatorio particolare, che è quello è quello olandese, perché secondo un rapporto UNICEF i bambini olandesi sono i più felici al mondo, tra l'altro da un sacco di categorie diverse, dal benessere materiale, la salute, la sicurezza, l'istruzione, le condizioni abitative e ambientali, qualsiasi sia stato il parametro utilizzato, comunque i bambini olandesi erano al primo posto. Volevamo capirci qualcosa di più, anche magari per avere qualche spunto, e lo facciamo con una figlia olandese, ci sembrava insomma il punto di vista migliore. Diamo il benvenuto a Brekkie Mesters, studentessa di psicologia di Rotterdam, cresciuta tra Italia e Olanda, quindi può anche fare un bel confronto, figlia di Bas Mesters, che è corrispondente in Italia per il quotidiano NRC. Ciao Brekkie, benvenuta ai Padri Eterni. Pronto, anzitutto grazie per l'invito. Buona domenica, Brekkie. Allora, sono davvero così felici i figli olandesi? Io penso che è una cosa molto soggettiva e è difficile concluderlo in una volta, però penso che ci stanno dei punti molto buoni nell'educazione olandese. Mm-hmm. E tra l'altro due giornalisti hanno preso i vari parametri e hanno cercato di tradurli in una chiave operativa, per proprio una sorta di manuale della felicità da consigliare alle mamme di tutto il mondo. Quali sono secondo te i punti di forza davvero nell'educazione olandese? Penso che c'è molta fiducia dalla parte dei genitori verso i figli e anche nell'educazione della scuola elementare e della scuola media. Per esempio i bambini possono giocare molto e hanno anche molto più tempo libero che i bambini italiani. Alle scuole elementari quasi non ci sono compiti da fare per i bambini dopo scuola. Insomma, questo già aiuta. Leggevo che uno degli indici, per esempio, di questa indipendenza è il fatto che quasi tutti i bambini vanno e tornano da scuola da soli in bicicletta, giusto? Sì, sì, è vero, c'è molta fiducia in questo aspetto, infatti. E, diciamo che l'Olanda è anche, penso, più sicura dell'Italia, per cui questa possibilità c'è. Però devo dire che i bambini di solito vanno o con un fratello o una sorella verso scuola o con dei amichetti. Ma tra l'altro leggevo qui, no, che i bambini olandesi sulla scheda sono i più felici al mondo perché, Federico, giocano all'aria aperta anche quando piove, vanno in bicicletta da soli, non hanno genitori iperprotettivi, praticamente sono i bambini italiani degli anni 70. Siamo noi. Negli anni 70 così? Negli anni 70 e 80? No, ma perché questo, Brekkie, è un dibattito che in questo momento è molto presente, no, in Italia. Il fatto che i genitori di oggi sono assolutamente iperprotettivi, tentano di tenere al riparo i loro figli da tutto, e quindi stiamo crescendo generazioni di bambini che sono sempre più dipendenti da noi genitori. Sì. È bello vedere che invece, no, la modalità per disinnescare questo atteggiamento sia semplicemente concedere maggiore fiducia. Sì. Brekkie, tu sei cresciuta in Italia perché hai vissuto qui tra i 4 e i 14 anni e poi dopo sei tornata in Olanda, quindi hai veramente la possibilità di fare un confronto. Ci sono altri spunti, altri elementi che ti hanno praticamente colpito nelle differenze? Sì, per esempio a scuola le maestre in Italia, quando un bambino ha fatto qualcosa che non si deve fare, le maestre strillano. E quando i miei genitori mi hanno messo su una scuola elementare italiana, non sapevano che era un po' normale, no? Okay. Perché in Olanda gli insegnanti, quando un bambino fa qualcosa che non va, non urlano, ma gli danno un castigo parlando, no? Sì. E la comunicazione è molto importante tra insegnante e bambino, ma anche tra genitore e bambino. Mm-hmm. Per esempio in Olanda bisogna sempre comunicare col figlio. E, io ho sentito anche che in Italia qualche volta si dà una pizza quando un bambino non ascolta. Sì, una pizza nel senso una sberla, non una pizza margherita. Sì, okay, sì. Perfetto, sì. E in Olanda questo non viene visto come una cosa adeguata da fare come genitore. Mm-hmm. E un ultimo elemento che alla fine è fondamentale, quello del sonno. Dormono molto di più i bambini olandesi, vero? Sì, molto di più. è questo. Per esempio, quando io stavo da amici italiani con i miei genitori a cena, i miei genitori mi portavano a letto verso una certa ora. Sì. Invece i bambini degli amici italiani rimanevano svegli con i genitori finché andavano a casa. E i miei genitori pensavano che era sempre molto importante che io e le mie sorelle andavamo a letto abbastanza presto, perché avevamo bisogno del riposo. Brecchi, un'ultima domanda: e i papà olandesi sono molto diversi dai papà italiani? Io penso che io ho avuto un papà molto che accetta molto e con cui puoi sempre comunicare. E forse i papà italiani spingono un po' di più. Mm-hmm. E io ho avuto il sentimento che con mio padre ho sempre potuto parlare su di tutto. Sì. E non fa niente se qualche volta qualcosa non riesci a fare o non sei capace di fare una cosa, perché c'è sempre tempo per imparare. Insomma, mi sembra un ottimo insegnamento che tenteremo di fare nostro. Un grazie davvero a Brecchi e Mesters. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Ciao, ciao. Buona giornata. L'80% dei padri italiani vorrebbero usufruire del congedo di paternità. Questo è un dato che risulta da un sondaggio Doxa realizzato nell'ambito della campagna nazionale di Piano C. Andiamo a scoprire che cos'è Piano C. Lo facciamo con una delle cofondatrici. Diamo il benvenuto a Riccarda Zezza. Ciao Riccarda. Ciao, buongiorno. Buongiorno, voi avete commissionato qualche mese fa questa ricerca, i papà italiani si raccontano, ma non solo, con i papà italiani state lavorando in una sorta di master. Cosa avete combinato? Che cos'è MAM? MAM è l'acronimo di Maternity as a Master. È nato con le mamme, come sì, si dice dal nome, però è velocemente arrivato anche ai papà. Ed è praticamente la dimostrazione, è un corso che consente ai genitori di scoprire quali competenze allenano facendo i genitori e possono usare sul lavoro. Quindi non insegnate a fare i genitori, ma insegnate cosa si apprende facendo i genitori che può essere poi speso in altri ambiti. No, è perfetto, esatto. È bellissima questa cosa. A me piace un sacco che finalmente ci si sia accorti che la genitorialità in genere sviluppa una serie di attitudini, di competenze che sono spendibili, appunto, no? La presenza, l'ascolto, l'attenzione, il multitasking, basterebbero questi. Allora, Riccarda, ti chiediamo un attimo di pazienza, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ci racconti nel dettaglio come funziona MAM. Padri Eterni. Eccoci qua con Riccarda Zezza. Allora, Riccarda, che cos'è MAM e come funziona? Allora, è nato come un'idea sulla mia esperienza personale di donna che lavorava, ma anche madre, e io ho visto che la maternità era vissuta come un problema, mentre in realtà mi sembrava di essere diventata più brava. Sì. E allora ho detto, se è successo a me, forse succede a tutti, si tratta solo di raccontare le cose in modo diverso. In realtà, dopo aver avuto questa idea, abbiamo fatto tanta ricerca. E quindi la cosa interessante è che dietro a MAM c'è la scienza. A livello biologico, a livello sociologico, diventare genitori rende la vita più complessa, ci rende più forti, ci dà una serie di ormoni che ci rendono più svegli, più veloci, più capaci. Peccato che nel mondo del lavoro questo non venga visto e quindi non venga riconosciuto. Mm-hmm. Mentre dall'altra parte nel mondo del lavoro si spendono svariati milioni di euro in formazione per avere proprio quelle competenze che la vita, quando si diventa genitori, ma non solo, allena. E quindi oggi noi cosa facciamo? Vendiamo alle aziende, perché passiamo attraverso le aziende, un programma digitale a cui si possono iscrivere le neomamme e neopapà di bambini tra 0 e 3 anni. E facendo questo percorso digitale scoprono le diverse competenze che vanno migliorando in modo naturale con la pratica della paternità e della maternità e che possono usare con efficacia sul lavoro, ma anche viceversa. Okay. E questo è molto importante perché molto spesso noi arriviamo a essere genitori con la paura di non saperlo fare, e però siamo bravi al lavoro. Beh, molte delle competenze che usiamo sul lavoro vanno bene anche con i figli. Insomma, mi sembra un punto, davvero un punto di vista rivoluzionario. Riccarda, 300 sono gli uomini per ora iscritti al corso. Che uomini sono? Sono uomini meravigliosi. Adesso non so, siccome l'iscrizione è volontaria, magari c'è un'autoselezione all'origine. Perché il corso è partito 6 mesi fa in 4 aziende in Italia per i papà. Sì. Con un forte focus sull'intelligenza emotiva. Perché la cosa incredibile è che la paternità allena a livello neurologico, cioè nel cervello, proprio l'intelligenza emotiva. E questi 300 papà ci hanno scritto anche delle email per dirci che sono soprattutto sollevati di poter finalmente rivelare e portare anche al lavoro una parte così importante della loro vita. Perché la paternità al lavoro è spesso invisibile. La maternità è maltrattata, la paternità è invisibile. Sono uomini che ci dicono che vivono intensamente la loro paternità, la loro identità, che stanno migliorando la loro capacità di ascoltare anche segnali infinitesimali, che stanno scoprendo che sono bravi ad organizzare anche a casa come sono bravi ad organizzare sul lavoro. Insomma, sono padri alla ricerca e alla scoperta. Mm-hmm. E che hanno un'ultima cosa molto importante, che è la leggerezza. Io credo che i padri possano insegnare alle madri a essere molto più leggere. E su questo è interessante perché la natura fornisce ossitocina ai padri quando giocano. Quindi la natura premia il gioco nei padri. E quindi c'è una dimensione di leggerezza che è molto importante anche portare, secondo me, in generale nella famiglia. Riccarda, sulla maternità è maltrattata e la paternità è invisibile, io ci farei un'altra puntata, nel senso che è proprio il cuore del problema, ma in generale volevo fare semplicemente questo commento, cioè il fatto che qualunque dispositivo, qualunque master, qualunque cosa, insomma, che investa sul fatto che la genitorialità non deve essere vissuta come un ostacolo nel mondo del lavoro, ma può essere vissuta come un'opportunità per migliorare anche le prestazioni lavorative, secondo me è rivoluzionaria. Quindi sono molto d'accordo con voi. Riccardo, mi chiedevo, ma ok, sono aziende che partecipano al progetto, quindi sono aziende illuminate, lungimiranti, sono aziende che si mettono in gioco. Ma le aziende non temono che possa esserci anche, che ne so, appunto, che l'uomo voglia dedicare meno tempo al lavoro perché vuole stare più a casa con i propri figli? Non c'è questo timore? Magari, per ora direi che siamo molto lontani da questo timore. Sì. Sono aziende illuminate, ma sono anche aziende che si sono accorte che le cose stanno cambiando, nel senso che intanto c'è una grande ricerca di queste benedette competenze trasversali, competenze soft, intelligenza emotiva, sì. E non sanno dove andare a cercarle. Quindi forse l'idea che si possano allenare nelle relazioni personali e familiari non è così stramba alla fine, e quindi la riconoscono. E probabilmente c'è anche un tema di energie che è molto importante, nel senso che queste persone si scaricano, cioè chi sta in ufficio tutto il giorno e non ha nient'altro, finisce le energie e alla fine si vede anche questo in azienda. Mentre invece andare a ricaricarle in altri ruoli ha un impatto molto forte poi sulla produttività. Non dico che adesso lo capiscano le aziende, però si comincia a parlarne quantomeno. Certo. E Riccardo, ti chiedo un'ultima cosa invece, tornando alla ricerca Doxa che avete fatto qualche mese fa. Oggi stiamo parlando di, appunto, natalità ridotta in Italia dal punto di vista degli uomini. Dalla vostra ricerca cosa si capisce? Nel senso che i papà hanno paura a fare figli? Allora, i papà, c'è un grande stereotipo, più che a fare figli hanno paura a rivelarlo o a chiedere di stare con i loro figli. Culturalmente parlando non è una cosa accettata, noi sappiamo che la cultura di un paese è determinante. Quindi meno la paura di avere figli quanto la paura di rivelarlo e di chiedere qualcosa per la propria identità paterna. Il ruolo paterno è ancora visto come quello di chi porta a casa da mangiare e basta. Però gli uomini non ci si riconoscono più. E quindi alla domanda se avere dei figli li ha resi più o meno felici, dicono più felici. alla domanda se li ha fatti sentire più forti o meno forti, dicono più forti. Però è come se non si sentissero autorizzati a rivelare tutto questo al mondo. Ok, insomma, che è comunque uno sguardo importante. Stavo guardando un po' di slide, no? Per esempio, congedo parentale di 180 giorni retribuiti al 30% nei primi 8 anni di vita del bambino. In 9 casi su 10 non ci sono state ricadute negative sul proprio lavoro per chi ne ha usufruito, ne parlavamo proprio prima. Il principale motivo invece per non averne usufruito è il non occuparsi personalmente della gestione della quotidianità. In tanti hanno appunto lasciato che fosse la moglie, la compagna a usufruirla. 3 papà su 10 fra coloro che non ne hanno usufruito vorrebbero farlo, ma non possono. Quindi, insomma, una lettura veramente dalle tante facce di una cultura ancora complicata, ancora non abbastanza diffusa. Credo che sia questo alla fine il dato reale, giusto Riccarda? Siamo drammaticamente indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei su questo tema. Anche il parlare, oggi abbiamo cosa? 1 o 2 giorni di congedo di paternità, 1 o 2 perché balla a seconda di in che fase siamo, 2 giorni di congedo di paternità. Ma sì, fa ridere. Fai bene a ridere perché fa ridere. Non si fanno neanche le procedure per averli, cioè, no. Ed è tutto, non c'è molto altro da dire. Oggi si discute di 2 settimane, ma anche 2 settimane è ridicolo. O il congedo parentale diventa un congedo condiviso, ma veramente condiviso. Esatto, ma sai Riccardo, il problema è proprio questo, no? Mettere la coppia al centro, la famiglia al centro. Il congedo parentale non deve servire alla mamma o al papà per stare di volta in volta col proprio bambino, ma serve a crescere come famiglia. Il bambino ha bisogno di entrambe le figure, ma di più, è la tua compagna che ha bisogno di te anche nel momento in cui è nel momento subito dopo il parto, no? Ha bisogno di avere accanto il proprio compagno. Questa cosa dovrebbe essere un'evidenza, e invece il compagno ha bisogno, l'uomo ha bisogno di stare lì, perché certo, lì cresce, lì cambia, lì vive. Anche tenerlo fuori è ingiusto, no? Credo che la parola chiave sia stare lì. Riccardo, tutte le informazioni per mamme dove si possono trovare? Un sito facilissimo da dire, che è maternityasamaster.com. Ok, oppure immagino anche che da pianoc.it si possano trovare i vari link. Grazie davvero, complimenti per questa bellissima iniziativa. Ciao e buona domenica. Grazie a voi. Grazie ciao, Riccardo, ciao. È il momento dei saluti, un grazie a Filippo Aureggi, oggi alla parte tecnica, un grazie a Riccardo Poli in assistenza, un grazie a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it è come sempre il nostro sito di riferimento, da lì potrete scaricare il podcast, trovare i contributi extra e trovare anche tutte le modalità per contattarci, oppure attraverso la pagina ufficiale di Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. È il momento della lettera. Oggi, Matteo, a chi hai scritto? Oggi abbiamo una lettera un po' particolare perché, contrariamente a quanto facciamo di solito, non l'abbiamo scritta a un personaggio noto, ma l'abbiamo scritta a delle persone che per noi sono indispensabili. Le mamme. Ecco la lettera. Lettera aperta alle mamme. Care mamme, avete ragione. Siamo stati a lungo quelli che uscivano alle 7 del mattino e tornavano a casa la sera alle 8 pretendendo di trovar pronto. Siamo stati quelli che il dialogo coi figli difficilmente andava più in là di tutto bene a scuola. Siamo stati quelli che si disinteressavano delle attività extrascolastiche. Quelli che saltavano le feste di compleanno perché eravamo al lavoro. Quelli il cui ruolo principale è sempre stato quello di dire i no. Certe volte tutte queste cose le siamo ancora, quasi mai per scelta. È già difficile così, contrastare il muro dei rimpianti, sentirsi estromessi da un tempo che sfugge come sabbia fra le dita. Per questo, ora che il mondo sta finalmente cambiando, che stiamo provando ad abbattere i recinti che noi stessi abbiamo contribuito a creare, ora che si parla di genitorialità condivisa, di paternità attiva e consapevole, solo una cosa vi chiediamo: aiutateci. Non guardateci come se stessimo sconfinando, come se arrivassimo a occupare qualcosa che vi spetta e a cui non abbiamo più diritto. Il territorio dell'affettività, della presenza, della cura dei figli è importante anche per noi. Stiamo cercando il tempo, faremo tutti gli errori possibili, ma li faremo in buona fede, proprio come hanno fatto i nostri padri. Impareremo, un po' per volta, perché papà e mamma sono solo ruoli e i ruoli si interpretano con tutte le loro caratteristiche e perfino i loro cliché. Ma quel che conta è solo la storia che contribuiscono a portare avanti. La verità è che a noi non interessa essere veri uomini, non se questo significa rinunciare a essere uomini veri. Ma per diventarlo abbiamo bisogno di voi.